E sveliamo allora al volo l'arcano di quest'oggi. La domanda riguardava il celebre videoclip di My Way nella versione di Sid Vicious, dove lo stesso faceva una cosa decisamente anticonformista e mai vista prima. La soluzione A prevedeva che Sid Vicious, scendendo le scale, sparasse al pubblico. E qui ci giochiamo già subito alla risposta. Eccola! Esatta! Bang, bang, bang, bang! Esatto, esatto. Sparava al pubblico. Sid Vicious scendeva vestito a sua volta in maniera elegante, contrariamente al suo personaggio, e sparava su questo pubblico di ricchi, benestanti, ingioiellati spettatori. E quindi tranquilli, Sid Vicious non ha mai giocato a freccette con le siringhe, come prevedeva la risposta, cioè, B. Forse giocava con le siringhe, ma non in un videoclip. E nemmeno infilava spille da baglia in un manichino che riproduceva fedelmente la regina Elisabetta, che era la soluzione C. Certo, regina che non ce ne deve volere assolutamente, no, perché era una finzione radiofonica, e comunque era anche un vezzo punk quello di infilare delle spille da baglia in un'immagine che riguardava anche la regina d'Inghilterra. Complimenti se avete azzeccato, continuate a impegnarvi. Se avete sbagliato, ricordatevi comunque che sbagliando si impara. Imparare dai propri errori, una regola di Pane, Burro e Rock and Roll. Oh no, the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway and that much more than this I did it my way. What I have to do. il buon, il cattivo Sid Vicious a interpretare My Way. Era la domanda di quest'oggi, riguardava in parte quel video legato a questa canzone. Era la domanda di quest'oggi del test attitudinale. Lui gridava: lo faccio a modo mio, proprio come noi affrontiamo giorno dopo giorno il... l'appuntamento con pane, burro e rock and roll, un po' a modo nostro, perché siamo fatti così. Qualcuno scriveva si scaccolava, ma no, no, Sid Vicious non si scaccolava, no, no, sparava agli spettatori. Allora, abbiamo un'ultima mezz'ora da passare insieme in questo venerdì 14 di settembre. Una buona giornata per chi ha la fortuna di svegliarsi solo in questo istante. Ciao, ti sei perso un'ora e mezza di trasmissione, il che è un male, però ne hai ancora una venticinquina di minuti abbondanti, anche 26, e se vuoi puoi farti sentire al 335-100-7777. A quale gruppo d'ascolto appartenete? Questa settimana è stata ricca di sorprese per quanto riguarda i vostri lavori, eh? Ne abbiamo scoperte di cotte e di crude. Oggi non ultimo, una persona che va a Gallarate a fare un corso di speleologia. Sì. Devo troppo informare, ragazzi. I Led Zeppelin si riuniscono per il mio compleanno. Che regalo, scrive Enrico. Però mi devi comprare il biglietto e sperare che ti sorteggiano. C'è qualcuno che ci prova? Noi dobbiamo fare una riunione di redazione, eh? Mettiamo i soldi in tre, io, Frick e Spadino. Poi se sorteggiano, sorteggiamo anche noi chi di noi va. Doppia fortuna, capito? Vi va, ragazzi? Non siete in squadra con me? No? While the sun hangs in the sky and the desert has sand, while the waves crash in the sea and meet the land, while there's the wind and the stars and the rainbow, till the mountains crumble into the plains. Oh, yes, we'll keep on thank you.

Quei brani che quando scatta nell'autovettura di Max De Rieu diventa subito festa, la festa dell'amore, immaginatevi, Ariel e Max De Rieu in una piccola autovettura, quando scatta Scendi dei Kiss è subito festa. Dovremmo filmarci in qualche viaggio, perché sono cose che si ricordano. A proposito di Max De Rieu, vi ricordo il suo appuntamento pomeridiano nel pomeriggio, per l'appunto, di Rock FM. Siamo alle battute finali, 8:47 minuti primi, ma ho il piacere di dare il benvenuto a un nuovissimo radioascoltatore. Dov'è che era? C'era uno che diceva: è la prima volta che vi sento. Perché tutte le volte che parlo così? Ah, eccolo lì. Marcello, perdonami, non trovo più l'SMS. Lo sapete che siete forti? Sì, grazie, ce ne eravamo accorti. È da poco che vi ascolto, ma dove cavolo ero fino ad ora? Caro Marcello, l'importante è che tu ci abbia trovato. Ricordatelo, la nicchia vincerà. Entra anche tu a far parte del gruppo d'assalto militare Davide contro Golia e vinceremo noi. Saluto anche all'autista al quale abbiamo fatto battere il cuore con My Way. Sentivamo i Sex Pistols negli anni 80 a tutto volume a casa di un mio amico. Che ricordi, ciao e grazie. Ah, è bello farvi ripulsare il cuore, è bello anche perché è facile e ve lo facciamo pulsare tutti i giorni, 24 ore su 24. Un po' di gruppi d'ascolto. Esiste un gruppo d'ascolto Oggi Mordo? Così mi accodo, può essere. Ci manca la sigla Internet is for Porn. Vispa, vedremo modo di ripristinarla. Qualcun altro scriveva quest'oggi: ci manca l'appuntamento col Diventaverde. Adesso lasciateci riprendere con calma, è solo la seconda settimana, ne abbiamo di sorprese per voi. Sono stata mollata, ma ora amo solo voi. Bacis. Anche noi ricambiamo molto volentieri. Tieni duro e roccheggia. E attenzione, orgogliosissimi di dare il benvenuto a un nuovo gruppo d'ascolto rappresentato da Amerigo da Pisa, che ci ascolta guidando una ruspa. Chiede addirittura il coraggio di chiedere se è abbastanza rock. Amerigo, su una ruspa tu sei veramente il più rock di tutti. E allora tutti insieme, gruppi d'ascolto, facciamo il momento Hairband per forza con la batteria. Vabbè, si può fare anche la chitarra qui. Insomma, scegliete lo strumento che volete. Sicuramente ci spariamo My Sharona Knack con la K, eh. Come a little closer. gioia o che sollazzo quando all'interno di Pane, Burro e Rock and Roll intravedo stagliarsi all'orizzonte la figura del maestro, del letterato, di colui che tenta di incastrare un po' di cultura in queste due ore mattutine vuote di significato, il maestro Roberto Fricantoni. Grazie, grazie ancora. Prego. Prima ancora che cominci. Sono lusingato, ci tenevo a dirlo. Che cosa vuole fare quest'oggi di bello? Oh, che gioia, oh, che sollazzo di cultura, un certo sprazzo. Avevo paura, sulla rima ho avuto veramente paura, conoscendo il suo amore per la rima baciata da sollazzo. È dura cavarsela, ma ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, grazie. Grazie per averci stupito anche quest'oggi. Dicevo, con cosa tentiamo di risollevare gli ascolti di Rock FM? Ma d'accordo, devo dire d'accordo con la validissima collaborazione della redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, avremmo scelto, parlo al plurale per correttezza, la traduzione di un brano degli Smiths. Cosa volevano dirci? I Fabbri. Le canzoni che abbiamo tanto amato in gioventù e che tuttora amiamo, in realtà, come sarebbero suonate in italiano? Esatto. È importante sapere. Queste sono le basi della cultura rock. È importante sapere. Le nozioni che tutti i rocker e le rockettare devono assolutamente apprendere. Continuiamo a credere che la cultura possa alzare gli ascolti di questa trasmissione. Noi ci Fino crediamo. A quando non ci fanno arrivare le ballerine, che come già da richiesta, ma ci penseremo più avanti. Che stiamo aspettando. Gli Smiths, ovvero? I Fabbri. L'abbiamo non la sapevo. Tradotto questo. Così, i Fabbri. Si traduce così. La redazione ha detto così. Ha detto così e noi ci adeguiamo. Andrà ad interpretare in maniera più esatta Big Mouth Strike Again. Perfetto. Ovvero Boccaccia colpisce ancora. Che già dal titolo non promette nulla di buono. In diretta sulle frequenze di Rock FM, il maestro Roberto Fricantoni legge The Smiths, i Fabbri. Prego maestro. Dolcezza, dolcezza, stavo solo scherzando quando ti ho detto che mi piacerebbe rompere ogni singolo dente della tua bocca, ogni dente della tua bocca. Dolcezza, dolcezza mia, stavo solo scherzando quando ti ho detto che dovresti essere pestato nel tuo letto. E adesso so come si è sentita Giovanna d'Arco, ripete due volte. Quando le fiamme sono salite fino al suo naso romano e il suo Walkman cominciò a fondere. Boccaccia colpisce ancora e non ho alcun diritto di prendere il mio posto nella razza umana. Il giusto applauso del pubblico presente in sala. Anche quest'oggi distruggiamo un mostro sacro della cultura rock inglese. Complimenti per il testo. Ma è un po' ermetico sul finale. Boccaccia colpisce ancora e non ho il diritto di prendere il mio posto nella razza umana. Ma non si butti così giù, giovanotto. Io sono rimasto colpito da adesso so come si è sentita Giovanna d'Arco. Sì, ha fatto un certo effetto anche a me. Una libera, visionaria interpretazione degli Smith. Se le va, ci ascoltiamo l'originale. Ma sì, perché no? Sentiamoci Boccaccia colpisce ancora. Vai Spadino! sapevamo che gli Smiths erano messi male, da quest'oggi ne abbiamo la conferma grazie alla traduzione di Big Mouth Strikes Again. Sono le 9 spaccate. Garavelli, mi riapproprio del minuto che stamattina mi aveva rubato Chuck Berry. In realtà è colpa di Spadino. Quest'oggi qualche testa in questa trasmissione dovrà saltare e, caro Spadino, ricordatelo, sia io che Frick Antoni siamo molto più importanti di te. Ed è con questa minaccia che andiamo alla fine della decima puntata di Pane, Burro e Rock'n'Roll, salutando un secondo ruspista all'ascolto. Pane, Burro e Rock'n'Roll, la trasmissione radiofonica più ascoltata dai ruspisti d'Italia. Sigla! Che emozione, che emozione! Un abbraccio a tutti i ruspisti, se non sono rock loro, guarda. Un po' di appuntamenti da ricordarvi. Pane, burro e rock and roll. Segnatevelo sulla vostra agenda. La tua colazione rock. Domenica 30 settembre. Pane, burro e rock and roll. Milano, Cascina Molluè, Schiantos dal vivo, primo raduno di Pane, Burro e Rock and Roll di domenica. Se cerchi una radio per farla un po' più difficile, no? Ecco, l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Guarda che è geniale organizzare il primo raduno di domenica sera. A no? Mezzanotte? Esatto, tardissimo. Per una trasmissione che poi va in onda alle 7 del mattino mi è sembrata un'idea geniale. Si finisce, si arriva qua. Cioè, noi abbiamo fatto la riunione. Quando la facciamo la festa di venerdì? Nah, troppo classico. Scontato. Di sabato, commerciale, la fanno tutti. Facciamola di domenica. Alternativo. Grande idea. Schiantos dal vivo. E poi, insomma, io, Spadino, Mister Trombetta, la banda di Pane, Burro e Rock and Roll. E le patenti? E le patenti. Guarda, Gravelli, non ti colgo quasi impreparato. Non farmi dire nulla. Tenetelo, tenetelo. Ci sono quasi. Secondo me in questo weekend le finiamo. Ok? Non farmi dire niente. Perché sennò vi portano alla casa di cura. All'Eleonora Dura. Esatto. Beh, quello abbiamo già un posto garantito. Perché è un cambio merce. Non è, loro non pagano la pubblicità. C'è un cambio merce, c'è una stanza per me. Tipo il film Amici miei, ti ricordi che c'era nell'ultima parte? Esattamente. L'ultima cosa che ricordo è su www.amore.net oppure tramite il mio blog, che trovate anche dal sito della radio, radiorockfm.com. Ho bloggato un video con i miei pay e Roberto Fricantoni, che ce la suoniamo Eptadone, un classico degli Schianti, una perla così che regaliamo in questi giorni. Vabbè. Stonature? Poche. Beh, canta Freak, quindi potrei anche dire tante. Sicuramente il chitarrista è messo malissimo, perché sono io, insomma, fateci un salto. Andatevela a vedere. Vi lascio nelle mani di Marco Garavelli, noi ci si risente lunedì alle 7. Ciao! Ciao! A lunedì prossimo, ciao ciao ciao ciao!